la versione di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori Radio 24, buon inizio di giornata in questo lunedì 9 di giugno, sono le 16:35 primi dagli studi Radio 24 di Milano, grazie a chi ci ascolta e chi ci scarica per sentirci quando può, se ho in questo momento lavora. L'argomento della giornata è ancora, e ve l'avevo preannunciato, la vicenda veneta, ciò su cui indagano i magistrati, questo sistema sistema che tocca la politica in maniera bipartisan, che tocca manager pubblici, che tocca finanzieri privati, imprenditori privati, che tocca chi deve controllare, la Corte dei Conti, i generali della Guardia di Finanza, che fa capo anche a interlocuzioni molto autorevoli con la politica romana. Intanto gli sviluppi, altri sviluppi, prese di posizioni politiche ci sono state anche dopo i ballottaggi che ci sono stati questo fine settimana, sapete le tre sorprese rispetto all'ondata che si attendeva tutta per il PD, e invece a Livorno al ballottaggio ha vinto il Movimento 5 Stelle, ponendo fino a lunghi decenni di governo delle sinistre. A Perugia, risultato a sorpresa nel ballottaggio, anche qui perde la sinistra dopo decenni e decenni e c'è un giovane sindaco del PDL. A Padova, città di Zanonato, ma città anche di Galan di cui parliamo oggi, vince Bitonci, quindi la Lega. Ma voi telefonateci per dirci ancora cosa pensate di questa vicenda veneta, in attesa del Consiglio dei Ministri che dovrà varare le nuove norme annunciate da Renzi. Renzi nel frattempo nei giorni ha corretto la sua prima presa di posizione, che diceva le regole ci sono, è colpa solo dei ladri. Adesso sembra che ci siano anche le regole da cambiare, vedremo quali e quante. Abbiamo spiegato che noi siamo per la cessazione delle deroghe che abbiamo visto dall'Aquila al Mose all'Expo, dare ampio spazio alle collusioni improprie tra manager pubblici, politica da una parte e imprese dall'altra. Abbiamo visto però che questa faccenda delle deroghe nasce dal fatto che con le regole attuali non si riescono a fare le opere, quindi bisogna cambiare quelle piuttosto che pensare di sovrapporre nuovi controlli. Ma la puntata di oggi ha a che fare con un altro aspetto di questa vicenda, perché nel caso del Mose, ma si potrebbe dire lo stesso per l'Aquila e per l'Expo, nella realtà è che noi siamo bombardati tutti i giorni da centinaia di notizie, le rincorriamo pensando che rincorrere il momento per momento sia il dovere del giornalista, e tutto questo ci impedisce di vedere che poi in realtà ci sono dei lavori ben fatti, delle testimonianze giornalistiche, dei libri che scrivono già per filo e per segno tutto quello che poi dopo anni scopriamo solo perché finisce nelle indagini dei magistrati, ma c'è già tutto. Questa vicenda veneta è descritta già tutta in un libro di 2 anni fa, che si intitola I padroni del Veneto, uscito per La Terza Editore, e cui si ricostruisce la politica e l'incrocio con gli affari del Veneto dal 94 in avanti. Si descrivono per filo e per segno i 15 anni di Galan presidente del Veneto e poi i primi anni di Luca Zaia, l'attuale presidente, e trovate non solo tutte le vicende del Consorzio Venezia Nuova, e tutti i protagonisti uno per uno dell'indagine in corso, naturalmente da Galan, da il suo braccio destro nei primi anni, poi europarlamentare Elia Sartori, l'assessore Chisso, Claudia Minutillo, prima segretaria di Galan e poi imprenditrice, trovate l'imprenditore Baita, la Mantovani Costruzioni, molti, moltissimi altri, li trovate tutti descritti per filo e per segno, non solo per il Consorzio Venezia Nuova, ma per il sistema ferroviario regionale del Veneto, per la vicenda della Save Aeroporti di Venezia con Marchi, eccetera, eccetera, eccetera. Allora la domanda è, c'è anche un capitolo testualmente intitolato Dove scorrono i soldi, in cui si parla, inizia il capitolo, è 15 anni che si parla di tangenti sulle opere pubbliche in Veneto. Si documentano le cene in cui si chiedono agli imprenditori 150.000 euro a testa per finanziare il reingresso a un ruolo nazionale di Galan quando non è più presidente della regione Veneto. Insomma, ripeto, sono 280 pagine piene di fatti, nomi, intrecci. Allora la domanda è: com'è che noi queste cose poi non ci rendiamo conto che sono tutte già scritte? Ed è una domanda che pesa non tanto per la gente comune, che purtroppo non ha il tempo e non ha il modo di far pesare le sue opinioni, ma riguarda innanzitutto la politica da una parte, e posso capire purtroppo, anche se condanno, che la politica poi stia zitta, visto che poi ci sono intrecci bipartisan, ma riguarda anche gli imprenditori soprattutto, perché gli imprenditori adesso giustamente Confindustria dice non possono stare tra noi, li cacciamo. Però la verità è che se un giornalista come l'autore ospite che ora vi presento e cedo a lui la parola ha trovato il modo per anni di descrivere tutto l'intreccio persona per persona che, su cui oggi indagano i magistrati, la verità è che qui centinaia di imprenditori, di finanzieri privati e così via, hanno visto ciascuna di queste gare, si sono dati di gomito, hanno pensato, hanno riflettuto, che cosa ne è uscito fuori? Perché dobbiamo tutti far finta di non vedere quello che è già scritto, che è l'altra pagina poi degli scandali italiani che non passano e non cambiano, perché cambierebbero e passerebbero prima se ci fosse una reazione forte, istintiva, no? Dei corpi organizzati, privati, prima ancora che delle leggi penali dello Stato. Allora, l'autore di questo libro si chiama Renzo Mazzaro, è un giornalista del gruppo Finegge, quindi scrive sulle testate del gruppo Repubblica Espresso in Veneto. Il titolo del suo libro, lo voglio ripetere, così andate a verificare, è I padroni del Veneto per la terza editore 2012. Grazie di essere con noi, buon pomeriggio Renzo. Buon pomeriggio Giannina. Allora, alla domanda perché se è già tutto scritto e documentato non ci sono reazioni della società civile, a cominciare dagli imprenditori, la risposta che dai tu come giornalista qual è? Beh, la prima è che non possiamo cadere dal pero, cioè c'è un libro, sì, ma il libro è stato una mera casualità, cioè è stata un'idea di La Terza, neanche la mia, che nel 2011 mi ha detto lei scriverebbe un libro sul Veneto con le cose che sta, beh certo ho detto io, figura di chiama La Terza che è un editore nazionale, era una bella gara, poi ho cercato anche di capire come mai erano arrivati da me, ma questa è un'altra storia. E però l'80% delle cose che sono descritte lì nei padroni del Veneto erano già state scritte giorno per giorno da me, cioè c'è un 20% di originale fatto apposta per il libro. Però, in cui colleghi le vicende, perché tu all'inizio del libro dici tutti i virgolettati, tranne diverse indicazioni, sono quelli ripresi dalle testate che per anni e anni hanno pubblicato gli articoli, quindi lo dici proprio. Esattamente, allora una cosa non si può fare e non la possono fare gli imprenditori, e far finta, cioè essere sorpresi, ma comunque gli imprenditori non sono sorpresi, è sorpresa l'Italia forse che è distratta, perché il Veneto come tante realtà regionali non fa notizia se non per cose minuscole, macchiette, noi pensa, possiamo darci del tu. Ah, se vuoi, sì, grazie. Il Veneto solo 30-40 anni fa era una regione che faceva ridere, era una barzelletta, era non so, la cameriera, era il carabiniere, era comunque una regione che aveva gente ancora che emigrava con le pezze a sedere. Non dico con la pedagra ancora, però insomma eravamo poveri e facevamo ridere, oggi facciamo paura, siamo ricchi, egoisti, tutto per noi, era sbagliato prima questa visione del Veneto, è sbagliata oggi, comunque era anche per me è stato un motivo questo di scrivere un libro cercando di raccontare nel mio piccolo come potevo, di raccontare il Veneto agli italiani oltre che raccontarlo ai veneti. Perché i veneti comunque sono distratti, ma è abbastanza tipico, cioè il meccanismo dell'informazione è tremendo, ti rovescia ogni giorno tonnellate di notizie e il giorno dopo cancellano quelle, le notizie il giorno dopo ti cancellano quelle del giorno prima. Quindi è anche spiegabile perché le persone si meravigliano, non possono meravigliarsi i politici, non lo possono fare soprattutto gli imprenditori, perché gli imprenditori sono proprio la categoria che conosceva dall'interno questi intrecci. Cioè io devo dire che nel libro non potevo certo descrivere le tangenti, non potevo certo sapere delle grassazioni che venivano fatte, nel senso che se l'avessi saputo avrei, no, certo. Avrei descritto, però voglio dire, l'ammontare delle cifre che opera per opera, perché lo dico a chi ascolta, vale la pena di leggerlo, anche se dal 2012 troverete pezzo per pezzo l'intero sistema delle opere pubbliche venete. Come sapete, chi parla qui non è contrario alle opere, altro conto è utilizzare le opere per cose improprie, però trovate la parte che riguarda il Consorzio Venezia Nuova, la parte che riguarda il sistema ferroviario regionale, la parte che riguarda le modifiche per la struttura di controllo dell'aeroporto di Venezia. Ricordate che l'aeroporto di Venezia, Marco Polo è il maggior polo intercontinentale dopo Fiumicino Italia per crescita di voli, visto quello che arriva, visto quello che Venezia è in grado di attrarre nel mondo, quindi non poca roba. Poi i passanti di Mestre e così via, poi tutto quello che riguarda gli ospedali del Veneto Gestione Galan, che quando arriva poi la giunta successiva, Tremonti minaccia di dover commissariare per i buchi. Per ciascuna di queste cose voi trovate documentata nei padroni del Veneto quello che giustamente dice l'autore era quello che si raccoglieva facendo questo mestiere. Sì, non ci sono le tangenti, però le cifre di cui parli sono cifre pazzesche, diciamolo pure, insomma. Certo, erano però cifre conosciute dagli addetti ai lavori. Ora mi ricordo un particolare: il libro è in libreria il 1 giugno 2012, e viene esaurito subito nel giro di quelle 4.000 copie, nel giro di 20-30 giorni. Comunque tre settimane dopo mi chiama un imprenditore, una persona di Vicenza, che mi dice: caro Massaro, io ho comprato una decina di copie del suo libro, la sto regalando a dei miei amici imprenditori, e uno mi ha detto: ma lascia stare che non ho tempo di leggere. E io invece ho detto: tu parti comunque, lascia stare quello che c'è scritto prima, parti da pagina 177. Sì. Poi dico io: cosa c'è a pagina 177? C'è il capitolo dove scorrono i soldi. Esattamente, vedrai che ti interesserà. Ed è dunque, gli imprenditori sapevano bene tutto quello che capitava, e molti di loro dicevano ai giornalisti, io stesso ho sentito tante di quelle lamentele, le ho descritte, ma nel momento cruciale in cui c'era bisogno di produrre dei riscontri, gli imprenditori si sono sempre chiamati fuori, cioè non è che vanno famosi per portare a fondo il piglio o le loro contestazioni, sono bravi a fare i ricorsi al TAR quando vince un altro, per dire, ma comunque è un meccanismo, questo qui è una conseguenza del sistema, perché il sistema, che era fatto di due polarità praticamente onnipotenti, e cioè la politica da una parte e il consorzio dall'altra, poi diremo se vuoi perché erano onnipotenti, creava un sistema nel quale se tu eri dentro che interesse avevi a parlare, se eri fuori non potevi parlare, altrimenti ti precludevi la possibilità di entrare. Ecco, io su questa seconda cosa vorrei da te un approfondimento dopo i 60 secondi che adesso abbiamo, perché c'è l'informazione stradale. Perché l'idea diffusa, poi noi siamo una radio di Confindustria, spendiamo inni giustificati anche all'imprenditoria del Veneto, la piccola impresa che sta più nelle filiere internazionalizzate delle global value chain del commercio mondiale, eccetera eccetera eccetera, però detto tutto questo, perché se uno non fa parte di un sistema di cui ha visto negli anni le modalità improprie di commissione tra politica e aggiudicazione dei lavori con cifre così rilevanti in ballo, dice a se stesso e a tutti i suoi colleghi quando si incontra: vabbè, per entrare meglio che stiamo zitti? Io questa cosa qui non riesco a capire poi il ritorno economico, perché farla esplodere dovrebbe significare, agli occhi di tante imprese che non fanno parte della propria commissione, la facciamo esplodere, così finalmente parteciperemo a delle gare trasparenti, faremo valere il fatto che noi non facciamo finti sconti bestiali come si vedono in gare pubbliche, e poi chiediamo di ritornare con la revisione dei costi dell'opera a opera aggiudicata. E questo a cui io non so darmi una risposta precisa, dopo tanti anni che vedo queste vicende, quindi mi interessa sapere, in Veneto, secondo te, gli imprenditori perché non hanno ragionato così? Ora, strada. La versione di Oscar. Eccoci qui, tornati in diretta a parlare ancora del caso Veneto, partendo da un libro uscito 2 anni fa, I padroni del Veneto. Abbiamo con noi il suo autore, Renzo Mazzaro, un collega che scrive per i giornali del gruppo Finegil in Veneto. Nel libro ha raccolto quello che per anni aveva documentato, era stato scritto, dichiarato, sugli intrecci tra opere pubbliche e affari impropri di politica e imprese in Veneto, tutti i soldi che giravano, le caratteristiche del lunghissimo regno quindicennale del sistema Galan. Eppure, appunto, ci scandalizziamo perché poi sono i PM. Alcuni messaggi di ascoltatori, alcuni sottolineano che bisogna parlare anche di altri pezzi del sistema, per carità, perché c'è chi manda per esempio messaggi sul fatto che bisogna parlare anche della GLF Fincosit, che è capofila per il MOSE e che però è implicata in molte di queste vicende, hanno arrestato anche il presidente dell'amministratore delegato. Certo, qui in queste trasmissioni con così pochi minuti io posso dare solo un taglio su un aspetto, in questo caso il libro inascoltato e il suo autore. non fare la ricostruzione giudiziaria di tutto. Molti chiedono, e in altre regioni perché ve la prendete solo con il Veneto? No, io non credo affatto che ci sia solo in Veneto questa cosa, come è evidente dall'Aquila, da Expo, non credo affatto che sia solo in Veneto. Penso però che invece di passare tra pochi giorni ad altro, bisognerebbe che capissimo cosa vuol dire tutto quello che viene riconfermato in questa storia e come si fa a mettere un punto a capo, cominciando anche da una diversa reazione però del mondo privato e delle imprese. Io sono felice che dicano li buttiamo fuori, ma visto che loro per primi vedono per anni le gare pregiudicate e i soldi che girano, allora ci abituino a vedere imprenditori che denunciano e dicono no, mo basta. Certo, si beccheranno le querele, però non è che chi ha scritto libri come questo di Renzo non si becca poi le querele. E probabilmente gli imprenditori hanno le spalle un po' più pesanti di un giornalista, o no? O che pensate? Ecco, io penso di sì. Renzo, perché secondo te in Veneto gli imprenditori che protestano? Io ricordo per esempio Mario Carraro, però Mario Carraro gli si poteva dire tu hai fatto l'europarlamentare per la sinistra, quindi parli per la politica. Carraro spesso ha parlato negli anni del sistema veneto, a dire la verità. Ma altri invece, secondo te, perché non lo hanno fatto? Beh, allora la domanda, la risposta per me è semplicissima, io do quello che penso io, e cioè la prima è che la moneta cattiva scaccia sempre quella buona, e bisognerebbe che ci fosse un sistema imprenditoriale vero. Qui abbiamo solo dei carrozzini attaccati, cioè voglio dire le grandi imprese non è che eseguono loro i lavori direttamente, hanno le imprese subappaltatrici e poi c'è il sub del subappalto. Qui ci sono delle situazioni assurde del tipo, a me ha raccontato che ad esempio facendo 100 il costo di un'opera viene presa viene vinta da un'impresa più grossa che poi la subappalta. Queste imprese grosse non fanno mai direttamente loro i lavori, certo. Quasi e allora la subappaltano a 80 metri e poi il subappaltatore la subappalta a 60, 50, 40, 30 si arriva, cioè facciamo anche 50, qui il contribuente spende 100 e l'opera viene fatta a 50, vuol dire dunque metà materiali, metà lavoro, oppure che l'impresa lavora sotto costo sperando di, intanto dice sto un giro così in apnea però non muoio e aspetterò il prossimo giro, è tutto così. Ora il problema per me è che in riferimento anche alla persona di cui riferivi adesso del SMS, cioè il Veneto c'ha una caratteristica però attenti che è unica in Italia, cioè c'è un consorzio Venezia Nuova che è concessionario unico dell'opera, non esiste altrove un fatto del genere, è stato fatto costituito per legge, dunque hanno tutte le cose regolari, però la legge del 1984 successivamente bisognava allinearsi ai comportamenti europei perfetto. E viceversa questo non è stato fatto, oggi si capisce perché il consorzio pagava tutti, non c'è uno che non fosse fuori, dalla magistratura alla polizia, alla guardia di finanza, aveva tappato tutte le possibilità di e notiamo che il consorzio faceva ed era costituito per legge, ripeto, per fare gli studi qui sul Mose, su come gli studi, i progetti e anche i lavori faceva tutto lui, e dall'altra parte hai la polarità politica dove c'è stato, il Veneto è da sempre una regione di centrodestra, ma il centrodestra è stato monopolizzato da Giancarlo Galan con la sua abilità, con le sue capacità, con il fatto che era ancorato in alto su Berlusconi e non in basso nel consenso. Cioè qui Giancarlo Galan si è potuto permettere, dal punto di vista di Forza Italia, i comportamenti che altrove avrebbero ucciso un politico. Se tu sbagli ad esempio di indicare il sindaco di Verona, che è una città di centrodestra, e vince il centrosinistra perché hai sfaldato tutto il centrodestra, insomma poi qualcuno farà i conti dentro tuo partito se ad esempio ti chiami Formigoni, anche Formigoni è stato quattro legislature presidente della Lombardia e comunque aveva capacità e controllo come Galan, però aveva anche, doveva fare i conti con la base molto più di quello che Giancarlo Galan ha dovuto fare nel Veneto. Queste due polarità qui, queste due onnipotenze messe assieme hanno prodotto questo risultato. È così, credo che possiamo dire solo a Renzo che torto che non gli abbiamo dato retta 2 anni fa, probabilmente. Alcuni chiedono, hai avuto querela per il libro, Renzo? No, neanche una. Neanche una, questa è la migliore risposta. Ma devo dire anche una cosa simpatica, che il libro è stato presentato la prima volta il 19 giugno del 2012 a Padova e io ho invitato anche Giancarlo Galan, il quale è venuto. C'era anche lui, c'era Mario Carraro, avrebbe dovuto esserci anche Zanonato, che invece all'ultimo momento non poteva, ma comunque Giancarlo è venuto lì e ha detto stavolta volevo correlare Mazzaro, però devo dire che ne avevo anche parlato con Ghedini, ma devo dire che Mazzaro è stato attentissimo a farsi, a non farsi correlare. Tutto quello che è scritto nel libro è vero. Ah bene, vabbè, allora perché dice io avevo il potere, io avevo l'ho esercitato, chi ha il potere deve esercitarlo pesantemente, si capisce, pesantemente. Ma cosa deve fare uno che ha il potere? Vabbè, probabilmente abbiamo concezioni diverse di che cosa deve fare uno che ha il potere rispetto a... Sì, ma è stato anche lui, per chi lo conosce, ormai in Italia lo conoscono in parecchi, lui è anche molto guascone. Sì, è molto guascone, pronta, però resta il fatto. È un simpaticissimo, per carità. Sì, meno simpatico è fare i conti con le modalità con cui hai esercitato il potere. Esattamente, perché poi, ripeto, la storia di Via Sartori, come quella di Casa Minutillo, testimonia poi come che uso si fa discrezionale del potere. Questa è la mia personalissima opinione. Sentiamo rapidamente alcuni ascoltatori. Franco da Roma, prego Franco. Pronto? Sì, eccoci Franco, di. Non faccio analisi perché ne sì. Sono già fatte tante. Comunque Totò non mi fa più ridere perché purtroppo i truffati non sono i protervi, i superbi e i ricchi, ma sono i poveracci. Anni 90, io vado indietro perché a suo tempo volevo prepararci una tesi su questo argomento, poi dovuto rinunciare perché i computer all'università non c'erano. Ricordo solo un dato, ristrutturazione stadio olimpico, base d'asta 37 miliardi, si arriva a trattativa privata, si arriva sotto tempo, bene, 204 miliardi. Questo quando lo mettevo nel preambolo del mio lavoro, dicevo ma fino a quando si potrà continuare a usare la politica come un supermercato? Che vuoi? Si prende il non si fa pagare niente, senza contare che quei prodotti che stanno lì, che sono stati messi dai risparmi dei nostri padri, dei nostri nonni, che si giravano in mano 10 volte i soldi prima di spenderli, sono stati dilapidati, non ci sono risorse per la famiglia, eccetera, eccetera, quando invece nei paesi della Mitteleuropa risorse ce ne sono, perché andiamo a vedere la percentuale di corruzione più fisiologica. Io a suo tempo la quantificavo nel 3-5% nella Mitteleuropa e da noi purtroppo andavamo oltre il 20-25%. Oltre il 20-25%, va bene. Come negli anni 90. Allora, chiudiamo l'analisi, andiamo subito alla... Sì, però rapido. Avevo ipotizzato una misura legislativa. Quale? Una misura di rango costituzionale, una misura operativa, un codice di procedura. È una misura procedurale. La misura legislativa, che però faceva storcere era di 3 commi. Una legge di rango costituzionale, perché doveva essere legge pubblica. Ok, che però dice? Dice 3 cose. Nella lotta alla criminalità organizzata sono ammesse deroghe temporanee e motivate ad alcune garanzie di libertà costituzionali. Aia, Franco, ti devo interrompere perché ho capito che andrebbe per lunga. Luciano da Firenze, devi essere rapidissimo però, Luciano. Buonasera. Buonasera. Senta, io siccome nel settore ci ho vissuto e ci vivo, secondo me la madre di tutti questi problemi è il MOSE, non è nulla in confronto a quello che succede. È la progettazione. Ok, qui ce ne faremo un'altra trasmissione. Grazie a Renzo Mazzaro, leggete il suo libro, I padroni del Veneto, continuate con Radio 24, appuntamento come da domani.